Sconvocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Vediamo chi vince. Edizione numero 66 del Festival di Sanremo è vinta da Simone Zaza. 1-0 per la Juve al 43. Un giorno ti dirò che ho rinunciato agli occhi suoi. La scelta della Juventus pochi minuti prima di andare in vantaggio era una scelta che lasciava pensare la Juventus addirittura volesse tirare in fondo il risultato, perché è passata dal 4-5-1 in finale. E per uno degli episodi del calcio, su una doppia deviazione, l'abbiamo addirittura persa. Non deve piangere mai, non deve arrendersi. Stasera per noi era un test importante, bisognava dimostrare di essere all'altezza per poter vincere il campionato. 3 mesi fa eravamo 12esimi in classifica e i ragazzi sono stati molto bravi. È una bella iniezione di fiducia e di autostima, indipendentemente che ora abbiamo raggiunto il primo posto, però questo era uno snodo importante per il campionato da parte nostra a livello psicologico. Ci dobbiamo mettere una pietra sopra, perché se andavamo alla ricerca di riscontri, e questo è un riscontro positivo, perché venire a Torino allo Juventus Stadium e giocare più che alla pari alla Juventus penso che non succede molto spesso né in Italia né in Europa. Si immagina già come sarà il finale? Finale io me lo immagino, perché è l'obiettivo che dobbiamo avere tutti nella testa, e deve essere un bel finale, anche se sarà molto difficile perché mancano 13 partite e Napoli anche stasera ha dimostrato di essere una squadra di alto livello. Io non so se ha ragione Sarri a dire che il Napoli ha giocato alla pari con la Juve, se ha ragione Allegri che si immagina il finale quello lì pur senza nominarlo. 800 24 00 24. Allora rapidamente, Sampdoria Atalanta 0-0, Palermo Torino 1-3, Udinese Bologna 0-1. Questi sono i tre risultati di un pomeriggio che è vissuto sul ricordo di quello che è stato ieri sera. E allora chiamiamo anche voi, 800 24 00 24, per raccontarci il vostro Juventus-Napoli, anche se sono passate 18 ore dal gol di Zaza. Saluto subito Arrigo Sacchi, grazie Arrigo, buonasera. Buonasera. Buonasera Arrigo. Io non so se ha ragione Sarri a dire che ha giocato assolutamente alla pari con la Juve, o se questa serata la rimpiangerà magari a metà maggio, pensando che avrebbe potuto osare qualcosa di più. Non so, cosa ne pensi? Io penso che il Napoli stia facendo esattamente un capolavoro, in considerazione di tante cose, che aveva di fronte una squadra che sta dominando il campionato italiano da 4 anni, che aveva di fronte una società che oggi è di gran lunga avanti rispetto a tutte le altre, una società che ha investito molto. Ricordiamoci che il costo del lavoro della Juventus è più del doppio e il fatturato anche quasi le tre volte. È il triplo. Quindi io credo che non si debba perdere questa visione totale. In tutto questo, allora, a livello di gioco, direi che il comando del gioco l'ha avuto la navicella e non la portaerei. Quindi il Napoli ha comandato il gioco ieri sera, ma non ha avuto un po' il braccino corto, Arrigo? Ha avuto un possesso palla, direi, asfittico, un possesso palla che non si può aver tutto. Allora, degli 11 giocatori del Napoli, solamente uno è abituato a giocare a partite di questa intensità e di questa importanza. Che è Higuain, no? Sì, Higuain. Dall'altra parte c'è una storia, c'è un'esperienza, c'è un gruppo che fa della determinazione, della personalità, dell'esperienza in una società modello. C'è un gruppo che non è mai morto. Una squadra che però ha giocato un calcio molto prudente. Molto prudente, direi un calcio con molta tattica, troppa tattica. Senti cosa scrive un amico. Juve-Napoli è stata una gara giocata sulla paura. Fosse stata Real o Barcellona, i tifosi avrebbero fischiato dopo i primi 5 minuti. Sono d'accordo assolutamente. è stata una partita che a livello europeo io credo molti abbiano cambiato canale. È stata una partita tattica, come piace però a noi italiani, perché a noi italiani piace solo vedere una squadra che vince, si apprezzavano tutti. Una partita così in Spagna molto probabilmente ti fischiano, e quindi non è stata una partita emozionante, è stato molto pragmatico Allegri, mentre ultimamente la Juventus aveva fatto delle ottime partite, giocando un calcio anche più internazionale. Oggi ieri sera ha fatto proprio una partita di vecchio stampo italiano. Prima di tutto non prenderle, poi sperando che prima o poi i suoi fuoriclasse qualche cosa facessero, e ne ha talmente tanti che il decisivo è stato il quarto attaccante, sì, sì. Il primo. Ne ha talmente tanti, in un roger che io, parlando oggi con un mio amico che nel calcio è un dirigente importante, dicevo: ma se fossero delle figurine, quante figurine, e tu fossi alla Juventus, quante figurine prenderesti del Napoli? Ma una, ma forse due. Questa è la differenza. Quindi trovare delle colpe a Napoli, no. Napoli si è trovato in una situazione inedita. Neanche quella di aver dimenticato o rinunciato ad innescare Higuain e Insigne? Ha cercato, dunque intanto è andata con dignità, perché non ha fatto mai catenaccio. Sì. Ha cercato, non ha avuto un coraggio eccessivo, quello di rischiare in un paese che non ama però rischiare, se ne parla sempre dopo, di rischiare, e quindi non hanno capito che stando in questa situazione di stallo, prima o poi poteva succedere quello che è successo. Io devo dire, non sono capace a prevedere, però il giorno prima avevo scritto un lungo articolo sulla Gazzetta, sì, dove avevo detto che la Napoli, per vincere deve compiere un'impresa, la Juventus una partita normale. Sì, deve essere normale nella sua superiorità. Avete l'impressione, parto ovviamente da Arrigo Sacchi, che sia il blitz scudetto, ma proprio per quella cosa che diceva Sacchi all'inizio, cioè la Juve è abituata forse anche adesso a gestire il vantaggio, seppure affaticata probabilmente da una lunghissima rimonta straordinaria, 15 vittorie consecutive, è qualcosa che ha un solo precedente nel campionato italiano. Hai l'idea che ieri insomma la Juve abbia messo a segno il sorpasso decisivo? È un po' presto. Allora, mi ripeto, normalmente sì. Perché questo non, perché la Juventus è una grandissima squadra che a volte si dimentica, che la bellezza del gioco e il merito amplificano la vittoria e l'aiutano. Giocare in Italia in questo modo, c'è tanto rispetto verso la Juventus, che può succedere che anche una squadra spavalda, con lo spirito d'avventura come il Napoli, rimanga solamente sulle sue, un possesso non influente. A livello internazionale no, io mi auguro che non sia così. Quindi io deve fare di più col Bayern. Allora, in Europa tutte le squadre sono molto più brave ad attaccare che a difendere, e quindi alla sede iniziativa. Io credo che il possesso palla sia stato ieri sera a favore del Napoli. La sede iniziativa degli altri può essere, però io mi auguro che sia stato un fatto dovuto stavolta. La Juventus non aveva avuto fortuna con gli infortunati, perché non poteva far giocare Mandzukic, perché non poteva far giocare Chiellini, perché dopo poco si è fatto male Bonucci. E che dire, era al 50%, sì. Quindi non aveva avuto fortuna. Qui però si vede la straordinaria grandezza. La partita com'è stata? Beh, il migliore è stato Barzagli, e questa la dice lunga, sì. No? Quattro migliori difensori, sì, sì. In una partita piena di stelle, sì, soprattutto della Juve. Quindi, certo. Dopo la colpa di tutti, le attaccanti sono stati peggiori, eccetto cioè, abbiamo capito che non ti sei per nulla divertito. non gli è piaciuto. Io capisco le difficoltà, che ha avuto il Napoli a livello proprio di esperienza, a livello, quello che loro stanno facendo è straordinario, però io ecco li invito a non mollare, adesso devono dimostrare, perché qui salta fuori l'uomo, salta fuori il professionista, salta fuori l'orgoglio, sì, salta fuori di non mollare, perché quello che stanno facendo è veramente straordinario, perché Napoli è arrivato lì attraverso il gioco, attraverso il collettivo, fa del possesso palla con dei giocatori che la maggior parte di loro non erano i più gentili, una cosa incredibile. Quindi Rigo, sei d'accordo? Che... sei d'accordo se io e Pardo ne parliamo spesso, Napoli e Juventus stanno tra le prime otto in Europa? È difficile dirsi. La Juve forse sì, la Juve, non lo so. La Juve secondo me sì. Il Napoli no. Il Napoli ancora non ha questa esperienza, però dipende dagli uomini. Hanno un grande allenatore, un grandissimo allenatore, un vero maestro, un genio dell'insegnamento, della didattica, gli ha dato tanta conoscenza, tanta che sono arrivati a Torino e non hanno fatto catenaccio, era giustificato, avevano due punti di vantaggio. No, dopo uno dice, ma perché non sono riusciti anche a fare quest'altro? Noi abbiamo visto che non l'ha fatto la Juventus, che domina il campionato italiano da 4 anni, perché lo chiediamo a Napoli. Sì, forse si chiedeva troppo, però chissà se un giorno rileggendo questa partita a fine maggio a Sarri non verranno alcuni pensieri. Grazie comunque ad Arrigo Sacchi. Sempre un piacere. Grazie a voi, buona serata. Sempre un piacere. Grazie ad Arrigo Sacchi. Poi leggiamo alcuni messaggi che stanno arrivando: 349-238-6666, sia WhatsApp che SMS. Ma in tanti hanno visto una partita diversa rispetto a quella che ha visto Arrigo Sacchi. 800-24-0024, torniamo subito. Se continuiamo così, se dovessimo continuare così, lo scudetto non può togliercelo nessuno. Tutti convocati. Tutti convocati. Da napoletano, che cosa pensi che possano pensare in questo momento i tifosi? Sicuramente saranno male, perché perdere contro la Juve e perdere il primato è un po' dura per noi napoletani. L'unica cosa che gli chiedo è di starci vicino come hanno sempre fatto, e noi come abbiamo sempre fatto remi il massimo per vincere tutte le partite. Siamo fiduciosi perché abbiamo battuto la prima in classifica e adesso siamo noi i primi, perciò siamo noi più forti e dobbiamo continuare così. Insigne e Zaza, due dei protagonisti di ieri sera, protagonista secondo in realtà, perché Insigne ha fatto quasi scena muta. 800-24-0024, c'è Montella che sta parlando ai microfoni di Sky. Rispettiamo i Frosinone, rispettiamo i Carpi e anche il Verona, così come tutte le altre squadre, ma noi se ritroviamo questa continuità anche di oggi, sicuramente non è stata fatta una partita di grande qualità rispetto ad altre che abbiamo perso. Sicuramente noi ne verremo fuori alla grande, perché la classifica è corta da noi in su e sappiamo che dobbiamo sicuramente fare di più, ma il cammino è quello giusto, che oggi nel secondo tempo abbiamo creato due occasioni, ecco, quella di Ranocchia e questa qui su palle con Nitide, che magari con un pizzico di tranquillità in più la partita sarebbe potuta andare così come era prevedibile che fosse, sull'1-0, perché era una partita di questo tipo. Ovviamente questo Montella, io vi leggo la classifica nella zona caldissima: Atalanta 29, Udinese 27, Palermo 26, poi ci sono le due genovesi, Genoa e Samp 25 punti, il Frosinone che ieri ha vinto ad Empoli 22, poi Carpi 19. L'impressione che anche durante il mercato invernale in molti abbiano dato per ormai definitivamente spacciate Frosinone e Carpi, no? E adesso mi sembra che siano un po' cambiate le cose. Anche lì non vorrei che qualcuno si pentisse. Sì, anche di aver fatto saltare Zenga, magari 16 alla punti in 12 partite e Montella 9 in 13. Ma insomma, non per dare dei numeri, Così Claudio Zuliani, ciao Claudio. Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Come la va? Allora, Arrigo Sacchi si è annoiato, ha detto partita brutta, probabilmente in Europa in tanti hanno cambiato canale. Più o meno, insomma, sintetizzando il suo pensiero. Sì, ma anch'io guardavo il festival, mentre facevo le telecronache, in effetti. Sì, non ho dubbi. Avevo davanti il monitor con i cantanti, che volevo capire se vincevamo gli stadio. Mm. Infatti hanno vinto gli stadio, ha vinto lo stadium e hanno vinto gli stadio, vedi che tutto torna. E il blitz è scudetto, è la fuga, è il sorpasso, no, che blitz, porta lo scudetto. Non no. È blitz scudetto, l'abbiamo già vinto lo scudetto, si tratta solo di capire quando festeggiare. Ah vabbè, sì, ho capito. Quindi Napoli morto, Juventus per la quinta volta campione d'Italia? No, Napoli non è morto, Napoli arriverà penso a 10 punti dietro alla fine del campionato, che è onorevole insomma, in genere il campionato arriva e vince con 20-30, di stacco onorevole. Dai, ma lo sto dicendo da ottobre, quindi non è che cambi adesso che ho vinto lo scontro diretto. Sì. E anche il Bayern deve prepararsi a lasciare strada. E perde ancora un paio di giocatori, giochiamo io e te. Sì, si è fatto male Batstuber, anche. Operato. Sì, anche Batstuber fuori 3 mesi, sì. Quindi vedi, non solo la Juve, ce li ha gli impedi che poi ti massacrano sto povero Allegri per gli infortuni, ma il Bayern è messo peggio in questo momento, attenzione. Massacrano Allegri relativamente, no, ma difatti Allegri lo massacravano 3 mesi fa, quando in tanti rimpiangevano Conte, oggi e adesso pare che si mordono la lingua, siano saltati tutti. Ancora critiche, perché comunque la Juventus ne perde una partita. Questo preoccupa comunque. Tu ricordi giustamente che il Bayern è messo peggio in difesa, però diceva anche prima Arrigo Sacchi, e su questo io concordo, per la sfida col Bayern servirà certamente di più che lasciare l'iniziativa all'avversario. No, ma guarda che adesso, a parte le battute idiote del post-vittoria, io capisco che Sacchi si è annoiato per la visione del calcio che ha lui. Però la Juventus ha fatto delle partite in cui con la Roma, la Roma è venuta a mettere i pullman e quindi 1-0, con il Milan uguale 1-0, il Napoli ha fatto delle dichiarazioni settimana in cui diceva no, facciamo il nostro gioco, in realtà no, e quindi dopo l'altro 1-0. La Juventus giustamente gioca in casa, sa amministrare le partite e può tranquillamente accontentarsi del 1-0, ma non penso sia molto a colpa della Juve quando vengono fuori queste partite così. La partita perché molto tattica, era una partita da 0-0. Era una partita da 0-0. C'è Raffaele Auriemma? Cioè, no, chi è? Boris Sollazzo, scusateci, noi confondiamo un napoletano con l'altro. Ciao Boris! Eccomi, ciao ragazzi. Discutiamo della noia di Arrigo Sacchi ieri vedendo la partita tra Juventus e Napoli. Sbaglio, hai fatto un post, sono ancora colpa vivo Sollazzo. Sì. Ma questo mi stupisce che Sacchi abbia trovato noiosa, perché non è che fosse molto diversa dalle partite del suo Milan, è una partita giocata tatticamente perfettamente da entrambe le squadre, e quando sono tatticamente perfette le squadre finisce quasi sempre a 0-0, perché in difesa sono tutti bravi. A centrocampo sono tutti bravi, da una parte c'è stato Marchisio che ha lavorato per tre, dall'altra i nostri hanno fatto sempre quello che fanno di solito. È inevitabile, insomma, senza errori ci è voluto infatti un autogol. Mi colpisce, di solito sono le partite che devo fare al Milan di Sacchi, solo che magari il Milan di Sacchi aveva Gullit e Van Basten e poi la mettevano dentro. Ieri Higuain non l'ha fatto, di Pala neanche. Sì, c'è questa statistica che credo terrorizzi i napoletani: quando Higuain non segna 7 partite, 7 punti. Ne ha vinta solo 1 su 7. Sì, però cioè, anche, sia tanto, sia tanto da avere sul gioco di Sarri, Boris, però. Boris, ieri il Napoli ha rinunciato ad innescare il suo potenziale offensivo. Ma non, voglio dire, non credo che abbia rinunciato a innescare il potenziale offensivo. C'era anche la Juventus in campo che ha deciso abbastanza deliberatamente di giocarsela in difesa. L'hanno anche ammesso, hanno detto che volevano chiudere gli spazi dietro per evitare che il Napoli facesse lo stesso gioco e poi attaccarli quando potevano. Infatti erano dei simili contropiedi quelli che permettevano alla Juventus di andare in avanti, ma era una partita che mi sembra che la Juventus a 20 minuti alla fine si fosse rassegnata a pareggiare. Ma io su questo però sai che non sono d'accordo, Boris. Chiedo anche a Claudio Zuliani, anche la mossa di inserire Alessandro per Dybala a me ha ricordato identica, minuto compreso, Claudio correggimi, quella fatta nel derby col Toro. Assolutamente. Minuto 87, tutt'altro che difensiva quella mossa, no, una mossa tattica, non difensiva. Anche perché Alessandro praticamente quando ho messo in quella posizione lì dove può fare l'ala e basta è assolutamente devastante, è un giocatore offensivo. Dybala era da togliere perché non ce la faceva più, si continuava a toccare l'anca, quindi in quel momento non aveva cambi dello stesso tipo in panchina se non il giovane Favilli, quindi è stata giusta la mossa. Ed ha confermato quello che abbiamo detto in settimana, cioè la differenza tra la Juventus e il Napoli quando la partita è equilibrata la fa la rosa. La fa il fatturato. La fa il fatturato di Sarri. Il signor fatturato, dici? L'estratto conto non va in campo. Secondo me ieri il Napoli è andato in campo, ha fatto una partita molto tattica, perfetta dal punto di vista tattico. Mi sembra che possiamo convenire, sì, su questo punto, e anche Sacchi era d'accordo. Non vorrei, come si diceva prima, che Napoli potesse rimpiangere questa gara. Boris, possiamo cancellare una volta per tutte le questioni, veleni che sono sparsi questa settimana su Rizzoli, prima Orsato, poi oggi davo un'occhiata alle pagelle, voto medio 7. A Orsato mi sembra cancellato, ma non perché abbia condizionato la partita, ma perché non mi sembra che abbia fatto una grande direzione, insomma... nei dettagli, però le grandi partite si giudicano pure sulle piccole cose, ma penso da una parte o dall'altra. Mertens entra, fa un fallaccio, non viene ammonito. Morata all'inizio fa un fallaccio e non viene ammonito. Marchisio secondo me era da buttare fuori, però insomma chiaramente non è su quello che si è giocato. Secondo me siamo in un campionato strano in cui quando le grandi squadre perdono si sentono più forti. Ieri il Napoli secondo me ha dimostrato che non deve avere paura della Juve, perché comunque ha dominato, poi ha una grande difesa la Juventus, è stato bravo Rugani anche a inserirsi, non era facile per lui, però mi sembra che il Napoli è andato a fare il suo gioco, è andato a dimostrare di essere una squadra molto forte, chiaramente contro una squadra che fa della difesa, è la miglior difesa, la sua forza, la squadra più esperta. Poi cioè, voglio dire, non credo manco che l'abbia fatta la rosa la differenza, perché non credo che Zazza sia più forte di Abbiadini. Semplicemente quella è una partita che sarebbe finita 0-0, altre 100 volte l'avremmo giocata. Poi ci sta un piede, mi sembra una pura casualità quello che è successo. Io credo, anche da quello che ha detto Marchisio, che abbiamo avuto la dimostrazione che questo campionato si deciderà all'ultima giornata, alla penultima giornata. Siamo in presenza di due squadre che si equivalgono. Beh, certo, il dramma di questo campionato, quello che ci auguriamo tutti, meno Zuliani, che invece vede la Juventus vincente, sì, con largo. No, 10 punti di vantaggio. Il dramma di questo campionato è che sono destinato a vincerle quasi tutte, le Juventus e Napoli, perché mi sembra che ci sia una differenza abissale tra le due squadre e tutto il resto. Poi magari Napoli arriva a quinta. Sì, adesso vediamo, perché nei prossimi 10 giorni, Boris, ci sono Napoli-Milan e Fiorentina-Napoli, e lì credo si giocherà molto del campionato del Napoli, se ci sarà. Io non credo, ma insomma, se ci sarà un contraccolpo psicologico per il sorpasso di ieri sera. Grazie a Boris Sollazzo, grazie a Claudio Zuliani, ciao a tutti e due. Ciao. Grazie, scusate per l'abbaio del cane, ragazzi. Ma quando ho sentito, quando come ho sentito, si chiama? Lady, quando ha sentito l'espulsione di Marchisio, invece che ridere, si è messa a abbaiare, perché è una signora, quindi non risponde a abbaiare. Ciao, bravi, continuate così, che arrivate secondi, bravi. Vabbè, intanto scrive un amico: ha dominato il Napoli, ma che partita ha visto Boris Sollazzo? Gabbiadini come Zaza è matto. Beh, però Gabbiadini è una signora riserva. Sono due bei giocatori. 800-24-00-24, cioè, che ricorda che con Evra e Alessandro a sinistra, Cuadrado e Lichtsteiner a destra, la Juve è una cerniera insuperabile. Poi Michi: io ho visto due squadre tatticamente perfette, certo, se da una parte c'è Pogba e dall'altra parte non c'è nessuno, alla fine è a lungo, questo pesa. Poi la vera delusione per i tifosi del Napoli è stato Higuain, che è mancato nella partita che poteva decidere lo scudetto. E poi ancora Napoli ha fatto catenaccio con Insigne e Callejon dietro la linea del centrocampo. In realtà su questa storia del catenaccio, chi ha fatto più catenaccio dell'altro, si stanno dividendo i tifosi. No, chiedo scusa, ha ragione Sollazzo. Di cosa? Ha ragione Sollazzo, perché si tratta di una trasmissione, sì, da cani. No, non è vero. È ora di finirla con questo giornalismo spazzatura. No. E finalmente arriva la voce. Cosa ci deve dire? Cosa e arriva deve la voce, dire? Della verità. Perché io sono giornalista come voi. Sì. E oggi vi racconto praticamente uno scoop. E insomma, praticamente stamattina ho sentito Rizzoli e gli faccio: ma non c'è ciao Nico, sì, come Nicò. Stai? E lui mi risponde: cosa ha risposto? Benissimo. Ma come benissimo? E io gli dico: ma si è fatto male? Come benissimo? Nico, tu stai ancora male, anzi. No, ma tu anche stai perché malissimo. Sennò sai le polemiche. Praticamente, no? Un risentimento polpaccio non passa mica così in fretta, anzi, è uno stiramento sfociato in pubalgia. No, ma non è uno stiramento. E poi gli ho detto: ricordati che hai anche qualche linea di febbre, anzi, no, febbrone da cavallo, no, gengive che sanguinano, mal di testa. Luciano, nausea. Non è così, no, scaccarella, non è così. Insomma, una brutta influenza intestinale, sì, c'è pure la forfora. No, non è vero. E non ti non sarei è mica beccato la zika, gli ho detto. Curati, fai le prove del sangue, anche le urine. Anzi, visto che ci sei, pure il sangue occulto nelle feci. Ma perché non perché tutto questo? Per dimostrare che non poteva, per dimostrare che non poteva arbitrare. No, lui è malato, deve starsene a casa. Ha detto che sta benissimo. Torniamo subito a 800240024. Abbiamo perso, ma abbiamo perso 1-0 all'85esimo da un episodio non è che hanno meritato. Una sconfitta, ma stanno un punto avanti, 13 partite si può recuperare. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Tutti convocati. 800240024, Sandro da Napoli. Sandro. Ciao Sandro. Carlo, ciao Giovanni. Ciao. Ciao. Ciao. Ragazzi, brucia ancora parecchio. Ieri sera sento ancora i pugni nello stomaco per questa cosa. Sentiamo, sì. Più pronto? Tramortito dai pugni nello tramortito stomaco. Dai pugni. Edoardo da Milano. Edoardo, ciao, poi cerchiamo di recuperarlo, Sandro. Edoardo, ciao. Prego. Eccomi qua, ciao a tutti ragazzi. Innanzitutto volevo dire una cosa a te, Capuano. Secondo me il Signi ha fatto una grande partita ieri, perché comunque in fase di ripiego, in fase di, diciamo, di copertura è stato grandissimo sulla fascia. Chiaramente non ha fatto molto in fase avanzata ed attacco. Sì, però è lecito, Edoardo, aspettarsi da Insigne e Higuain, che almeno in due un tiro in porta lo facciano. Ok, ma è lecito anche vedere che la Juve, appena abbiamo parlato noi, ritornavano in 11 dietro la linea del centrocampo, quindi era anche difficile ripartire. Poi comunque in queste ultime due partite il Napoli ha meno gamba rispetto a qualche partita fa, e quindi non riesce a fare quella fase di transizione che prima faceva più velocemente. Io dico che ho visto due squadre stanche e un po' sulle gambe, che hanno pensato soprattutto prima a non prenderle, e poi la differenza le hanno fatti i cambi. Noi ne abbiamo fatto uno, la Juve ne ha fatti tre. Ecco, in questo senso secondo me Sarri ha sbagliato, perché a un certo punto della partita, anche se magari a livello tecnico i cambi non sono all'altezza dei titolari, però se metti dentro gente fresca con più gamba, sicuramente più un hamstring, anche Jorginho. Si può provare a dare un po' di respiro a una squadra che era in apnea alla fine. No, ma tu vai con questa ultima partita così, secondo me, anche perché il Napoli. Tanto, secondo me, quello di Allegri è un cambio tattico, cioè non è semplicemente la voglia di sigillarsi. In tanti l'hanno scritto 4-5-1 per tenersi il pareggio. Sandro da Napoli, vediamo se l'abbiamo recuperato. Sandro, pugni hanno fatto male. Eccoci, ripreso dai pugni, sì. Ah, ok, perfetto. No, mi ricollego, sono d'accordo con insomma l'ascoltatore che ha parlato prima di me, e niente, anch'io a quel punto avrei usato qualcosina di più, magari facendo entrare Gabbiadini prima e farlo giocare accanto a Higuain per liberargli un po' di spazio lì in avanti, perché effettivamente a un certo punto Higuain era isolatissimo, chiuso lì in mezzo alla difesa, i nostri esterni che non riuscivano a fare quello che fanno di solito. Cioè hai la sensazione che ci sia stato un po' il braccino corto alla fine. Più non che lo altro so. È stata una questione di atteggiamento, più che di cambi da fare o da non fare. Il Napoli è questo, ed è anche giusto che vada a questa partita con i suoi 11, anche perché non mi è sembrato un Napoli così in calo fisico, quantomeno non più della Juventus. È un momento difficile per tante squadre, non solo in Italia, però Napoli mi sembra stesse bene. Non ha voluto invece provare a rischiare più di tanto, perché possiamo dire che Insigne abbia fatto una grande papata, terzino, cioè se due attaccanti come Insigne e Higuain non tirano in porta una volta, io credo non possano aver fatto una buona prestazione. Poi per carità, in copertura hanno giocato Insigne, però gli attaccanti sono lì per fare altro. A proposito di atteggiamento, oggi a San Siro è successo di tutto. Ci vuole calma, è sangue freddo, calma, yeah. Ci vuole calma, è sangue freddo. Ferma perché meglio così. Si calma Mihajlovic, farà tutto negli spogliatoi. Peppe Di Stefano. Se, ce l'aveva proprio con lui, l'ha fermato Bovenzi, il suo preparatore atletico, ma era da 3-4 minuti lui, Montolivo, tutta la panchina ce l'avevano con Mario Balotelli. È stato bravo Bovenzi a fermarlo, ma era diretto verso Mario Balotelli. Marca uomo tutta l'aggressività, ma non posso privarmi del nome che porto, conscio di una brutta popolarità, perché a volte mi faccio giustizia da solo. Abbiamo giocato bene, non rischiando quasi niente, però come sempre le partite bisogna chiuderle. Poi alla fine si prende un gol così e soffri gli ultimi due minuti. Però devo dire che questa è anche colpa mia, perché come ho detto prima, da adesso in poi chi non si sacrifica fino al 94esimo minuto non mette più piede in campo, questo è sicuro. Queste sono parole importanti, qui ce l'avevi con Mario Balotelli? No, loro lo sanno con chi ce l'ho, non c'è problema, cioè, non c'è bisogno che dico i nomi. Non presto favori per poi riceverne per non so come, non so come, ci vuole calma. Allora, noi non sappiamo con chi ce l'aveva e allora abbiamo convocato Franco Ordine. Ciao Franco. Che ce lo dice immediatamente. Con chi ce l'aveva? Anche se un sospetto ce l'abbiamo. Qualche dubbio, c'è. Beh, no, è chiaro che ce l'aveva, secondo me, sia con Balotelli, soprattutto con Balotelli, per quello che ha fatto in quei pochissimi minuti in cui è stato utilizzato. 7+4. Ma credo anche... anche con qualcuno della difesa che si è schiacciato un bel pisolino negli ultimi minuti finali, a dimostrazione che il Milan, che non è una squadra di fenomeni, non può assolutamente consentirsi di staccare la spina con largo anticipo rispetto ai titoli di coda. E poi, se mi permettete, vorrei aggiungere qualcosa su quella discussione calcistica che avete cominciato a fare su Juve-Napoli. Partendo da Sacchi, che ci ha detto che una partita così in Europa in tanti hanno cambiato canale, partita brutta. Io devo dire francamente che a me non è piaciuta. L'unica cosa che mi è piaciuta e che io ho promosso a pieni voti è stato il comportamento dei protagonisti. Non ci sono state scene isteriche, non ci sono state polemiche, non ci sono state proteste, non ci sono stati incidenti. Insomma, da questo punto di vista 10 e lode un po', sì, 10 e lode per tutta la settimana, Ciccio. Sì. No, per i protagonisti. No, aspetta, Franco Ordine sta parlando dei protagonisti, sì, in campo. Certo. Sono i due accampamenti, i due club, esatto, si sono comprati in maniera perfetta nel corso di tutta la settimana. Sì. Poi durante la settimana sono stati sparsi a piene veleni, a piene mani, quindi da quel punto di vista sì. Ma non dal Napoli e dalla Juventus. No, il calcio però è un'altra roba. Lo spettacolo è stato deludente, secondo me molto deludente. Io devo dire una cosa, che il Napoli perché il Napoli non è stato, diciamo, il solito Napoli? Secondo me per un motivo semplicissimo, perché soprattutto i due attaccanti esterni, cioè Caione e Insigne, anziché dover fare soltanto 30 metri, 40 metri, perché sono abituati a giocare solo e soltanto la fase offensiva, in questa partita si sono dovuti preoccupare soprattutto della fase difensiva, anche della fase difensiva. Insigne ha fatto una serie di recuperi rinculando fino ai limiti dell'area di rigore, che solitamente non fa, e quindi hanno consumato preziose energie che hanno impedito loro di essere più vivi, vivaci e più pronti, scattanti in zona offensiva. Sì, hanno un po' tradito la loro, quelle sono le loro caratteristiche. Franco, ti devo chiedere un minuto di pazienza, c'è il traffico, poi chiudiamo il discorso sul Milan. Traffico. Hai visto Juventus-Napoli ieri? Il Napoli è il vostro prossimo avversario settimana prossima, che idea si è fatto? Non ho visto la partita. No? No. Si aspetta un Napoli... James Bond. Ah, beh, buono anche quello. Quale James Bond? Primo? Spectre. L'ultimo. Ma non l'ha neanche registrata? Non l'ho visto due volte. No, Spectre, dico, la partita. Alla partita? No. Vabbè, facciamo finta di crederci. Tutti convocati. Tutti convocati. Per chiudere sul Milan con Franco Ordine, detto che non so quando Mario Balotelli rivedrà di nuovo il campo. Franco, io non so che idea hai tu. No, secondo me se lo scorda per il momento, perché intanto il primo cambio è diventato già Menez. Poi adesso credo che stiano recuperando a pieno Luis Adriano, per cui il signor Balotelli, secondo me, questa volta rischia davvero grosso, perché se dovesse rimanere fuori dai giochi fino a fine stagione, è evidente che torna a Liverpool, ma diventa complicato e difficile, se non impossibile, rimettere in piedi una carriera. Sì, l'altra domanda è sulle prospettive Champions del Milan. Ieri Mihajlovic diceva: terzi arriviamo noi. La classifica dice che il Milan oggi ha 4 punti dalla Roma, che per il momento è terza. Poi vediamo cosa fa stasera la Fiorentina. Mia impressione, peseranno, il Milan rimpiangerà tantissimo i punti lasciati. Ad esempio la partita con l'Udinese, ad esempio, no, per restare solo all'ultimo quella, capitolo. Non soltanto quella, ci sono almeno 4-5 partite in cui il Milan aveva la possibilità di allungare e di essere questa volta davanti alla Roma. C'è una cosa che però aiuta a capire che forse siamo diciamo all'inizio di una piccola svolta. Intanto è il nono risultato di fila, e sai, mettere insieme una striscia di 9 risultati per questo Milan è quasi un piccolo record. Secondo aspetto, se tu pensi che nelle prime 6 del girone di andata aveva fatto una miseria di punti, mi pare soltanto 6, credo, che invece nel giorno di ritorno è già a quota 14, quindi raddoppiando di più il raccolto, capisci benissimo che insomma forse questa squadra ha raggiunto una dimensione che può consentirle in qualche modo di fare molto meglio rispetto all'andata. Sì, ed è stato anche molto dignitoso Mihajlovic nel momento più difficile. Grazie Franco. Grazie. Saluti, un abbraccio. Sì, grazie però, Franco Ordine, molto dignitoso. La dimensione l'avremo lunedì prossimo quando giocheranno a Napoli. La dimensione Napoli-Milan. Sì, perché il Milan può pensare, sognare il terzo posto. Sono 9 risultati utili consecutivi. Ma non deve sbagliare mai. Non deve sbagliare mai, e soprattutto io voglio vedere il Milan alla prova a Napoli. Voglio vedere quella dimensione lì del Milan. Parliamo di rugby. Roma dal nostro Giacomo Bagnasco. Ciao Giacomo. Ciao a tutti. Questo era l'urlo dell'Olimpico, dei 70.000 dell'Olimpico, prima d'Italia Inghilterra, l'urlo. Tutte le belle cose, un buon primo tempo e poi è finita un po' come al solito. Durato un tempo, sì. L'Italia è durato un tempo, come troppe volte succede. Il film l'abbiamo già visto anche l'anno scorso, per dire la verità abbiamo visto in un primo tempo veramente una buona Italia, capace di difendere ma anche di proporsi in attacco, di guadagnare metri eccetera, però poi alla fine è finita, lo diciamo noi, adesso recuperiamo il collegamento telefonico con l'Olimpico, è finita 40-9 primo tempo per l'Inghilterra, 19. Primo tempo 11-9, Italia che era stata buona nel primo tempo e si era anche portata in vantaggio all'inizio, poi piano piano si è sciolta, nel secondo tempo ha resistito in partita ancora una decina di minuti e poi insomma l'Inghilterra è volata via. Giacomo, sì, vi faccio sentire in diretta anche quello che dice Giorgio Biagi. Sì, seconda linea tour. No, non sentiamo nulla. Allora recuperiamo Giacomo Bagnasco, così parliamo di questa partita che segna un po', credo Carlo, la nostra traiettoria solita. Non era questa forse la partita dove dovevamo evitare il cucchiaio di legno, però è anche vero che non si vedono mai dei passi avanti. C'eravamo illusi settimana scorsa dopo la Francia. Sì, c'eravamo illusi anche oggi nel primo tempo con l'Inghilterra, però illusi fino a un certo punto, perché troppe volte l'Italia ha giocato partite su questa falsa riga, nel senso di reggere anche fisicamente per un tempo e poi squagliarsi nella ripresa. È il leitmotiv di tutte le ultime edizioni dell'Italia nelle Sei Nazioni, ai Mondiali, eccetera. Quindi nessun passo avanti da questo punto di vista. L'Inghilterra chiaramente troppo forte, era facile prevedere una larga sconfitta. però insomma siamo sempre le solite, regge un tempo e poi basta, le partite sì, durano Giacomo, 80 minuti. Siamo sempre alle solite. Qui no? ne giochiamo solo pronto? 40. Sì, sì, eccoci. Sì, ciao. Sì, ciao. Ciao Giorgio, stavamo parlando di un'Italia che è durata un tempo, poco più, che è un po' un tratto distintivo di tutte queste nostre esperienze nel Sei Nazioni, almeno quelle degli ultimi anni. C'è una spiegazione, un filo, un motivo? Troppo forte l'Inghilterra? In realtà non sono d'accordo. Credo che oggi il motivo che siamo calati fisicamente, perché abbiamo avuto qualche guaio fisico, qualche ragazzo è stato infortunato e la panchina era un po' corta. E i cambi che hanno fatto l'Inghilterra sulla freschezza ha fatto la differenza. Noi non potevamo farli perché i ragazzi erano infortunati, li avevamo già fatti. E non mi pare che settimana scorsa al 55esimo siamo calati. No, settimana scorsa no, però l'Italia negli ultimi anni ci ha abituato un po' a questo. Oggi è vero, Zanni che si è fatto male, abbiamo avuto problemi fisici, però negli ultimi anni nel Sei Nazioni caliamo nel secondo tempo. Questa è una Io ti posso parlare di quello di oggi, quello di altri anni magari non c'ero, non mi ricordo. Quindi è un'Italia su cui bisogna riporre ancora fiducia, dici? Tu dici di no, io dico di sì. Assolutamente, perché ti ho visto che quando c'eravamo fisicamente, soprattutto sulle fasi statiche, il primo tempo non sono andati da nessuna parte, anzi siamo stati noi quelli che abbiamo avuto il vantaggio sia in Mischia che in Tuscia. E il secondo tempo anche, ha un po' calato magari in Mischia, ma anche in Tuscia non è che abbiano avuto dei gran palloni di qualità. E purtroppo siamo calati fisicamente perché loro fisicamente stavano molto bene e come ho detto già prima, i cambi oggi hanno fatto la differenza. Ho avuto l'impressione che nel primo tempo siete riusciti a portare in campo la rabbia di Saint-Denis, mi sbaglio? Beh, credo che siamo stati un po' spreconi in realtà, abbiamo lasciato qualche punto al piede, anche e poi nel secondo tempo, quando in realtà loro si fanno due mete, però se noi riusciamo a fare una meta con Campa, riusciamo a risalire un po' col risultato, si rimane più attaccati alla partita e eravamo lì, però insomma oggi è andata così. Qual è l'obiettivo di questo Sei Nazioni? Al di là di quello, diciamo, dell'orgoglio di evitare il cucchiaio di legno, voi che obiettivo vi siete dati? Anche a livello di crescita? L'obiettivo è quello di vedere tutti un sacco di ragazzi nuovi che giocano in un torneo importante. Questo è l'obiettivo, secondo me. Beh, il nostro obiettivo adesso è preparare la partita contro la Scozia. E affrontiamo una partita alla volta e basta. Il nostro obiettivo è quello. In prospettiva, però, è interessante il test di questo Sei Nazioni per capire dove va, dove andate, dove va questo gruppo. Parlavamo alla vigilia dell'inizio del torneo, gruppo nuovo, annata forse di transizione da cui si deve ripartire per costruire. C'è anche questo nella vostra testa? Beh, di sicuro i ragazzi non hanno portato tanto entusiasmo. Oggi si vede in campo e si vede nell'allenamento. E stiamo amalgamando tanti ragazzi anche che giocano nelle Zebre, che giocano in Treviso, che sono messi in mostra nel Pro 12 e credo che la direzione sia quella giusta. Siamo fatti trovare pronti e si può solo che aiutarli. Speriamo che ci diano ancora una mano la settimana prossima. Sì, l'abbiamo detto, c'è da consolidare e da allargare la base per capire poi cosa si può costruire in questo ciclo. Grazie Giorgio. Grazie a voi. Ciao. Quindi questo è il racconto del pomeriggio del rugby dell'Italia. Maurizio da Messina, Maurizio. Buonasera. Ciao, prego. Niente, io volevo parlare del fatto della partita di ieri, Juventus su Napoli. Però sì, Non sono d'accordo che il Napoli arriverà a 10 punti dalla Juve, anzi a me mi ricordo nemmeno noi, nemmeno noi. È Zuliani che vola sull'euforia. A me mi ricorda benissimo il campionato, il secondo anno di Allegri al Milan, perché più o meno il campionato sarà così, e il Milan era molto più forte della Juve, la Juve invece teneva il passo, e poi secondo me la Champions sarà l'equilibrio del campionato. Se la Juve andrà avanti, può darsi che magari verso aprile. Sì, però io non sottovaluterei, Maurizio, anche l'Europa League, che a livello di fatica. Comunque abbiamo tempo di parlarne ancora. Dopo il GR delle 18. Di rispetto, sì. Io sono arrivato prima di Franco Ordine. E quando c'è un allenatore. È già andato via Franco Ordine. Appunto, peggio ecco, ancora. Quando c'è un allenatore che sta 10 minuti, sì, I giornalisti devono aspettare. Ma tutto. Non è vero. Perciò non mi piace quando uno sta 10 minuti qua, sta là, sta qua. Comunque contento, avete vinto. Adesso, al di là della pausa, adesso per aspettare 10 minuti. minuti. Tutto sì, ma se volete fare passare Francordi non c'è problema. Ma no, 10 minuti come uno stupido. Vabbè, torniamo noi fra 10 minuti. 800 24 00 24. Ragazzi, ci sono fra poco, tutti convocati weekend. 800 24 00 24. Se becchiamo fra poco, Tutti convocati. Radio 24, Sky e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. Siamo state convocate anche noi. Assolutamente. Grazie mille, grazie. Bene, allora siamo tutti convocati. Tutti convocati. Si immagina già come sarà il finale? Io me lo immagino, perché è l'obiettivo che dobbiamo avere tutti nella testa. Deve essere un bel finale, anche se sarà molto difficile perché mancano 13 partite e Napoli anche stasera ha dimostrato di essere una squadra di alto livello. I'm gonna give you my heart. Non abbiamo nessun obbligo di lottare con la Juventus fino alla fine, perché la Juventus è palesemente di un'altra categoria e noi siamo contenti di averci giocato alla pari. Scrive qualche amico: premesso che sono juventino, ma se il Napoli non ci prova con due punti di vantaggio merita di arrivare secondo. Questo atteggiamento è il primo limite di molte squadre. Poi c'è un altro amico juventino, Giacomo da Bergamo: sono tifoso della Juventus, ieri sera ero allo stadio e ha ragione Sacchi, abbiamo fatto pena. Allegri peggio di Trapattoni. Magari qui si esagera un po', però il dibattito su è aperto, che ti vince 15 partite di fila, sì, e adesso è primo in classifica. C'è ancora qualcosa da dire? Hanno ancora qualcosa da dire? Cioè, evidentemente sì. Rivogliamo Conte. Ma perché è aperto il dibattito? L'abbiamo aperto prima con le parole di Arrigo Sacchi sul suo giudizio abbastanza interessante, magari non del tutto condivisibile, su quello che è stato Juventus-Napoli di ieri sera. Ciao Pierre. Come va? Ciao. Bene, Pierino. A parte che Arrigo Sacchi ci ha detto che è stata una partita noiosa. Vabbè. E che in gran parte d'Europa avrebbero cambiato canale, e questo ha scatenato i nostri amici da casa. No, è stata una partita noiosa sicuramente, però non è che non possiamo prendercela secondo me con queste due squadre. È stata una partita bloccata, che è bloccata solo all'87esimo. È chiaro che se il gol fosse arrivato prima, da una parte o dall'altra, sarebbe stata diversa. Una partita diversa. È stata una partita che ha vissuto di uno stallo e sicuramente non è stata divertente, però questo non vuol dire che le due squadre non siano divertenti in assoluto. No. Non mi sento di rimproverare nulla ieri alle due squadre. C'era molta paura, sentivo adesso un po' i vostri commenti, non sono d'accordo né con chi dice che è colpa d'Allegri, mi viene quasi da ridere. Colpa di che? Di aver vinto solo 15? No, appunto, e nemmeno con chi dice che il Napoli, c'era uno che diceva se non ci prova adesso. Napoli, voglio dire, fino all'88esimo non aveva rischiato quasi nulla, stava portando a casa un buon risultato. Poi sì, ammesso però che fosse rischiare buono, un po' di più, perché qualche amico ci ha chiesto se era la Juve a giocare con i due risultati su tre, non il Napoli. Mettiamoci d'accordo anche su questa roba qui, perché a me sembra abbastanza incredibile. Cioè, voglio dire, partendo dal presupposto che poi la partita l'ha vinta la Juve, questo non è un dettaglio, fa tutta la differenza del mondo. Però insomma, è stata una partita, diciamo, da 0-0. Onestamente, io non mi sento di rimproverare molto al Napoli. Il Napoli, chiaramente vincendo ieri, poteva avere un allungo decisivo, importante, ma giocava fuori casa, in casa di una squadra che gli stava due punti dietro, con il vantaggio dello scontro diretto. Insomma, francamente, non mi sento di dire che il Napoli dovesse fare chissà quale partita iperoffensiva. La verità è che poi c'è stato un episodio, questo episodio che ha cambiato tutto. Ecco, sì. Questa è un'altra mancanza. Questa è un'altra mancanza di rispetto. Adesso dopo Franco Ordine, anche Pardo mi passa davanti. È dalla scorsa settimana che io aspetto Pardo, sette giorni. No, ce l'ho prima io in fila. Non c'è problema. Sinisa, fate passare. Ce l'ho prima io in fila. Non è vero, sono qua che aspetto sette giorni. Sinisa, noi non è che ci divertiamo a far aspettare gli. Io io non sono nervoso, se c'è una ordine, domanda, c'è voi ordine. Prendete per il culo. C'è Pardo, c'è Pardo. No. Adesso no, anche Pardo mi passa davanti. Finita, dai, è brutta, brutta parola. Io sto qua 10 minuti, dopo 10 giorni, dopo 4 settimane, non va bene questo. No, non è vero questo. 800-24-0024, Biaggio da Napoli. Facciamo passare anche Biaggio se da Napoli. Se no, fanno guardare James Bond e Spectre, vado a guardare. Oh, James Bond, guardo. Harry Potter, Harry Potter. Biaggio, prego. Ma quella è la bacchetta di Harry Potter. Non sai neanche questo. Prego, Biaggio. E chi è questo? Biaggio. Sì, sono Biaggio. Eccoci. Da Napoli. Prego. Ecco, anche Biaggio mi passa davanti. Io vorrei dire che Napoli non è finito e non finirà a 10 punti dalla Juve, come è stato detto, e non è un autorevole. Sì. Zuliani è tifoso, stato detto da Zuliani. Biagio, Zuliani è tifoso, cioè, fa parte, lo disegnano così, come Jessica Rabbit. Mi sembra un'affermazione un po' offensiva nei confronti dei tifosi del Napoli, ai quali peraltro non è stato neanche consentito di partecipare. Alla gara, insomma, capita anche agli altri a Napoli. Dai, non riapriamo però per cortesia oggi questo capitolo. Biagio, no, sulla partita di ieri hai avuto l'impressione, noi ci stiamo dividendo su questa cosa, se il Napoli abbia un po' perso forse l'occasione, abbia pensato di poterla controllare e basta. Sì, senza dubbio ha commesso l'errore di puntare allo 0-0 e di portare a casa il punto che poteva bastare, e non ha aggredito, diciamo, la partita. Questo è il dubbio, e forse è stata la causa della sconfitta, probabilmente. Piero. Scusate, l'errore, allora, uno commette l'errore di non volerla vincere se è nettamente più forte, no? Allora, se partiamo dal presupposto che il Napoli è nettamente più forte della Juve e ieri potesse, ma io non sono così convinto, io penso che le due squadre si equivalgano, e quindi secondo me nessuno ha commesso un errore ieri. Ieri era una partita chiaramente figlia della paura, ma dove non è che c'era una squadra più forte che ha evitato di attaccare perché non se l'è sentita, non ha avuto coraggio. Ieri è stata una partita alla pari, decisa poi da un episodio che può avere ovviamente adesso un'incidenza enorme sul campionato. Tra l'altro il Napoli adesso ha due partite molto complicate, almeno sulla carta, insomma, tra Milan e Fiorentina. Però ecco, io penso che se il Napoli fa 6 punti fra Milan e Fiorentina... È determinante, Pier, come si come riannoderà i fili dopo questa sconfitta. Però insomma, francamente, io non mi sento di dire che il Napoli abbia sbagliato chissà cosa. Cioè, adesso qui stiamo rimproverando al Napoli il fatto di non aver dominato in casa della Juventus allo Juventus. No, però magari non averci provato con un po' più di convinzione davanti, partita perfetta, di controllo. Ma sai che io ho il sospetto, ma non oggi, non ieri sera, ho il sospetto che la Juve, ma Buffon l'aveva detto alla fine, potesse giocare per due risultati su tre. Allora, ho capito, ma forse anche il Napoli voleva giocare con due risultati su tre, cioè, torniamo al punto di partenza. Io non, cioè, sinceramente, sì, però quella che aveva 3-4 assenti era la Juve, cioè forse questo era il momento, si era aperta la finestra temporale, non lo so, è il dubbio. 800-24-0024, aspetta, no, il ragionamento sul fatto che il Napoli dovesse per forza provare a vincerla derivava dal fatto che era davanti, cioè è un po' un paradosso, no? Il paradosso di solito chi la deve vincere è quello che sta dietro, giusto, mediamente, sì, perché è quello che deve rincorrere. Però il vero paradosso è che l'unico risultato che avrebbe sparigliato, che avrebbe creato una distanza enorme tra le due squadre, era la vittoria di Napoli. Però Napoli in più giocava pure fuori casa, quindi, cioè, a me sembra francamente che sia abbastanza, sia proprio il regno del, così, del dove vale tutto, il contrario di tutto. Secondo me è stata una partita equilibrata, ripeto, e poi ovviamente questo gol può fare molta differenza. Ma ripeto, se il Napoli reagisce, questo gol è un episodio che pesa 3 punti pesantissimi, ma che non decide il campionato. Sì, pesa 3 punti e non 4, lo diciamo a un amico che ci ha chiesto via SMS 349-238-6666. Se dovessero arrivare a fine campionato prima e a pari punti, non c'entra più nulla lo scontro diretto, perché si guarda esatto, non contano i gol fuori casa, non è come nelle competizioni UEFA. La differenza resi, dove in questo momento il Napoli è più 33, la Juve è più 31, quindi fossero pari sarebbe avanti il Napoli, però avanti la Juve. Sì, però insomma è ancora lunga. 800-24-0024, poi recuperiamo anche per Luigi Pardo, ci sono Gianluca da Napoli, Giovanni da Napoli, torniamo subito. Io sto qua da 10 minuti e vengono sempre tutti davanti. No. Tutti convocati. Tutti convocati. Invitiamo ovviamente tutti gli amici che ci stanno scrivendo messaggi sul rugby, c'è chi chiede perché non si torna a fare il 5 nazioni, perché per l'Italia fa un altro sport, a chiamarci 800 24 00 24. Molto noi volentieri. Due chiacchiere le facciamo volentieri. Gianluca da Napoli, Gianluca. Buonasera, salve. Eccoci. Allora, vorrei dire la mia, in effetti apprezzo il discorso che fate voi, non è una novità, e anche tutti gli amici che stanno chiamando in effetti si stanno chiedendo chi dovesse fare la partita. Questa cosa mi ha un po' meravigliato, perché fondamentalmente Juve e Napoli sono due squadre attualmente, almeno secondo me, equivalenti come forza. Però a meno due in casa la Juve teoricamente mi ha ingabbiato Higuaín in attacco, ma non mi sembra abbia fatto molto di più. Quindi se vogliamo parlare anche di un tratto psicologico di come è stata preparata la partita, mi sembra che per le 13 partite rimanenti, in fine così, forse Allegri ha più paura psicologica del Napoli di quanta possa sembrare. Poi Sarri fa delle affermazioni politiche, la Juve è superiore, ma è stata preparata una partita da parte della Juve con un timore, secondo me doveva fare il risultato, ha vinto semplicemente perché ha sì, avuto... Alla Juve andava bene anche il pareggio, secondo aveva me. Tante, io ripeto, aveva tanti problemi la Juve, adesso Mandzukic la riserva ce l'ha. Però il fatto ad esempio che sia stato recuperato Khedira all'ultimo momento buttato in campo significa qualcosa, dei dubbi che poteva avere Allegri sulla tenuta della sua Juve. A proposito di quello che manca da qui alla fine del campionato, abbiamo detto Napoli gioca con Milan e Fiorentina nelle prossime due, la Juve ha il Bologna fuori casa e l'Inter in casa, poi di incroci un po' particolari la Juventus ha il derby alla 30ª, Milan-Juventus alla 32ª e il Napoli ha Inter-Napoli alla 33ª, e poi si arriva alla giornata del 24 aprile, 35ª di campionato, che potrebbe essere davvero lo snodo finale decisivo, Fiorentina-Juventus e Roma-Napoli, che potrebbe essere il giorno dei giorni. A quell'ora la Fiorentina e la Roma. No, però i due calendari insomma si equivalgono abbastanza. Giovanni da Napoli, Giovanni. Buonasera a tutti, buonasera. Eccoci. Questa volta non sono d'accordo con Pardo. Io tipo Napoli devo rimproverare a Napoli la partita di ieri. Il Napoli ieri aveva una grande occasione, grande, ed è capace di farlo. Il Napoli è capace di giocare con grande ritmo, l'ha fatto con Milan, Inter, Fiorentina e anche con la Roma sulla 0-0. Ieri non l'ha fatto, un po' perché la Juve insomma è una grande squadra, un po' perché non l'ha voluto fare, non l'ha voluto rischiare. Il Napoli, se non gioca ai ritmi che sa giocare, è una squadra normale, e ieri non l'ha fatto e doveva farlo. Era l'occasione. Ma io sono più d'accordo con l'ascoltatore che con Pierluigi, in effetti, da questo punto di vista. Perché la grande forza del Napoli, come dice giustamente chi sta parlando, è la capacità di fare un gioco molto offensivo, e ha il miglior attacco del campionato, che ieri sera non si è presentato. Ieri sera non l'abbiamo visto, ma non solo e soltanto per colpa di Higuaín, molto nervoso, e di Insigne, che ha fatto praticamente il terzino, e di Caleon che ha fatto il difensore su Pogba. Lo scrive anche un amico, 349-238-6666. Un altro scrive si tratta semplicemente di una partita finita così per caso. Poi un altro dice: adesso che abbiamo leccato il culo al Napoli possiamo cominciare la trasmissione. Valentino da Lecce, noi lo salutiamo, in che senso, diciamo quello che pensiamo. C'è anche chi ci dice perché da due ore stiamo parlando di questa partita, ma perché forse è la partita scudetto. Però se volete da adesso parliamo di Fiorentina Inter. Storia non c'è, questo perché non esiste. Si scrivono delle cose per creare e amplificare, cioè delle cose che non possono arrivare. Io da sabato c'era il presidente Mario, e dopo è venuto anche durante la settimana, e parlavamo proprio su questo. Anche lui era stupito perché tutto questo qui usciva. Non è successo nulla, è tutto a posto, giusto per capirsi. No, cioè, non è che è successo nulla. Si parla molto della sua mancanza ipotetica dell'Inghilterra, di un malcontento del movimento calcistico italiano, ecco, può far chiarezza, può smentire o qual è la sua idea in merito, ecco. Io non leggo molte, però non posso smentire cose non vere. Si prende in esame l'Inghilterra a volte perché si considera il campionato più bello che c'è in Europa, con con delle qualità che noi non abbiamo, quindi questo e basta. Rimane all'Inter l'anno prossimo, mister? Sì. Ok. Ah, se non mi mandano via, questo perché non si sa mai. Mancini rimane se non lo mandano via, poi vediamo questa sera, ore 20:45 Fiorentina. Sosa rimane Inter. Se non se ne va. Sosa rimane se la smette di litigare con i Della Valle. Evaristo Beccarossi invece cosa fa? Resti, vai. Sono aperto un altro da Lecco, quindi. Sì. Come è andata? No, è andata con l'Ecco? Però vabbè, sempre secondi, abbiamo una squadra in testa con 15 punti di vantaggio, quindi non è difficile mantenere la seconda. C'è la Juventus anche lì? Sì. sentivo che parlavate di Juve-Napoli, però credo che al di là dei martelli pneumatici, perché la Juve sono dei martelli pneumatici, credo che Napoli abbia fatto capire che si può giocare allo scudetto fino alla fine del campionato contro una Juve straordinaria. Non ti aspetti che ci sia un contraccolpo psicologico, qualcosa? No, secondo me no, perché la Juve ha fatto quella serie di risultati lì e Napoli deve uscire ancora più forte da una partita che essere giocata alla pari. Tatticamente secondo me le due squadre sono state perfette perché l'hanno letta bene tutti e due, sono mancati magari qualche colpo, però secondo me sono due squadre straordinarie in questo momento. Certo, meglio certamente di Fiorentina e Inter. Quella di stasera, io non so se siete d'accordo, assomiglia un po' all'ultimo passo per una delle due, Io lo dico senza troppi giri di parole, soprattutto con la Roma che ha ricominciato a correre. Guai chi si ferma è perduto. Alla fine ci ritroviamo con le tre squadre che erano quelle all'inizio campionato, insomma sulla carta le più forti che stavano completando un progetto. Poi Inter e Fiorentina secondo me sono state brave a sfruttare il momento e la partenza falsa della Juve e qualche problema della Juve, però adesso bisogna tener conto anche della Roma perché è in grande spolvero con il ritorno di Spalletti, quindi stasera è una partita delicata, anche se chiaro che da parte interista mi auguro che vinca l'Inter, però andiamo incontro a questo finale di campionato veramente che ogni partita devi andare oltre le aspettative perché non c'è più tempo di ragionare, quindi bisogna andare a manetta. Dove era preso l'aereo, è a Firenze questa sera, i maligni dicono ci ha messo un mese di troppo per capire che era arrivato il momento di venire da queste parti, di fare un giro qui. No, vabbè, lui è il patron, non credo, qua ci sono le persone che so che stanno lavorando e quindi altre cose, probabilmente in questo periodo Mancini era quello che si è trovato a gestire un po' tutto, però la figura del presidente è importante, anche la presenza, insomma, e quindi in questo momento delicato è giusto anche dalla propria squadra. Ma che Inter ti aspetti questa sera? Perché le ultime versioni sono state sconcertanti, c'è quella col Sassuolo che ha perso però aveva fatto la partita, c'è quella che ha beccato tre gol in situazioni aeree improponibili a Verona. Ma bisogna vedere, è tornata un po' pazza. No, io faccio parte della prima Inter, quella la tosta, poi dopo vedremo di migliorare il gioco. Ho l'impressione che prima prendevamo meno gol ma portavamo a casa, poi ci siamo buttati a costruire palle gol, adesso costruiamo 6 o 7 palle gol e magari prendiamo o concediamo qualche errore di troppo. In questo momento bisogna cercare di ricompattare tutto e mi aspetto un Inter tosta che magari fa giocare un po' la Fiorentina, però quando parti gli vai a far male. Servirà una camionata di Valium stasera, due squadre molto nervose, due squadre molto nervose, allenatori nervosi, insomma. Però credo che Sosa e Mancini con le squadre che hanno fatto all'inizio, insomma, non si aspettava che, cioè, l'Inter al girone d'andata è stata in testa anche la classifica, ha fatto un girone d'andata eccezionale, la Fiorentina nessuno si aspettava che fosse lì, quindi sì, guardiamo le cose negative, però diamo merito secondo me due allenatori che avendo cambiato tanto nella loro squadra si trovano a lottare per un posto importante. Sì, con maggiori. Ho parlato come un libro stampato. Bravo, bravo Beck, sì, hai parlato come un libro stampato. Aspetta che c'è anche Pier, che tra l'altro è proprio a Firenze, Firenze per Fiorentina Inter questa sera. Sì, sono andato allo stadio. Gira molto Valium da quelle parti, dicevo prima che sono due squadre un po' nervose. anche se poi per dirti la Fiorentina ha fatto due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro partite, insomma sulla Fiorentina c'è una situazione strana di crollo del desiderio, o meglio di eccesso di critica, e poi in realtà il pubblico invece risponde sempre alla grandissima, però insomma così, come se improvvisamente tutto fosse diventato opaco, e invece no, perché questa è una stagione straordinaria ad oggi per la Fiorentina, che può ancora lottare per il posto, che è un obiettivo incredibile. La Fiorentina non ha né il famoso fatturato da terzo posto, e né secondo me la qualità, più che la qualità è la quantità di giocatori per poter essere la terza, e quindi quello che sta facendo secondo me è un'impresa. Così, insomma, non me ne voglio la Firenze, ma penso sia normale, cioè è una squadra che ha una dimensione da quinto sesto posto, ha un budget sicuramente inferiore rispetto a quello di Roma, Inter e Milan, oltre che Napoli e Juve. Sì, sta viaggiando sopra le proprie possibilità. Io credo che il problema di Fiorentina e Inter, che probabilmente sarebbero potute andare avanti fino a metà maggio a duellare per il terzo posto, è che in un modo o nell'altro è rientrata la Roma, e questo spariglia le carte. Io non so, Evaristo, se ti faccia più paura la Fiorentina, la Roma, il Milan. Insomma, sta cercando di rientrare, però mi fa più paura la Roma, perché ti ripeto e non invento niente, cioè Juve, Napoli e Roma erano quelle che stavano cercando di chiudere un progetto. La Juve da tanti anni che vince, Napoli dopo l'era Benitez è partito con grande credibilità, e la Roma era in ritardo, però sono le tre squadre che sulla carta sono quelle meglio attrezzate. Io mi aspetto di riuscire a lottare e infilarti lì al terzo posto in Champions, che sarebbe determinante. Sai, l'Inter è anche quella che ha maggiori pressioni, proprio per quei numeri che leggiamo, proprio per quella situazione debitoria molto difficile. Che non quindi si possono dire, perché Toir e Bollingbrock hanno detto che si può serenamente restare fuori dalla Champions League e non cambia niente. Ci sarà un piano A e un piano B, sì, come sì, in tutte per carità. Come in tutte le cose, il piano B sarà diverso dal piano A. Perché se mettiamo soltanto l'etichetta piano A, piano B, ho l'impressione che perdiamo di vista contenuto. Ti fa capire tante cose, nel senso che la Champions League permette obiettivi diversi. È chiaro che il piano B sarà in funzione se vai in Europa League, quindi sarà una campagna diversa, secondo me, per quello che quel poco o tanto che conosco. Una campagna acquisti e cessione. Grazie Evaristo. Ciao Beck. Ciao ragazzi. Ciao. Noi restiamo con Pierluigi Pardo da Firenze. 800 24 00 24. C'è un amico che dice: il Napoli ci ha provato, soltanto che Bonucci e Zaza hanno fatto la differenza, se no finiva 0 a 1. Torniamo subito. Secondo me finiva 0-0. Era il risultato finito. No, sì, finiva 0-1. Hai già la squadra in testa? Allegri, Sarri. Chi è che mancava, Piero? Paolo Sosa, Pioli, Donadoni e Gasparini. Ma e il del sistema Neri, di 7. Gioco qual è? A 7 di 11. No, 7 ne mancavano oltre a me. Ecco. Neanche uno oggi. Samir. Tutti convocati. Convocati. Poi ne parliamo, però intanto il Manchester City perde in casa 1-0 contro il Tottenham, che a questo punto è a quota 51 punti se finisce così la partita, alla pari dell'Arsenal che al 95esimo ha battuto il Leicester di Ranieri 2-1. Ma ne parliamo fra qualche minuto. 800 24 00 24. C'è Pierluigi Pardo, Claudio da Padova. Claudio, eccomi qua. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Ciao Claudio. Gente, volevo parlare per l'ennesima sconfitta della nazionale italiana. Di rugby. Se noi prendiamo, di rugby ovviamente, se noi prendiamo gli ultimi 15 anni, le interviste a fine partita sono sempre le stesse, le motivazioni sono sempre le stesse, e secondo me, permettetemi, non c'è nessun giornalista specializzato nel rugby che abbia il coraggio di dire la verità. Oh. Nessuno che in conferenza stampa abbia il coraggio di dire sì, ma ci state raccontando le stesse cose da 15 anni. Vero. Vero, hai ragione. Allora, è ovvio che il movimento del rugby in Italia non è il movimento del calcio, i nostri vivai non sono quelli degli altri stadi, perché non è il nostro sport. Però è anche vero che molto probabilmente il problema sta a monte del discorso, cioè a livello federale. Non c'è una programmazione corretta in un determinato sistema. Non ci sono le accademie come ci sono negli altri stati. E ma, se vogliamo cambiamo allenatore ogni 4 anni perché i risultati non arrivano. È vero che non arrivano, però sì, è anche abbastanza paradossale andare a giocare a 6 nazioni. Cioè è difficile costruire le cose in un periodo molto breve, ovviamente col serbatoio di giocatori. Sì, che 4 anni non è un periodo brevissimo, Claudio. Sono d'accordo. Diciamo, ci sono sport, adesso senza citare il calcio, dove gli allenatori durano molto meno. L'ultima volta che abbiamo avuto la sensazione di fare qualche progresso c'era Berbizier. Poi Berbizier se n'è andato perché ha capito che più di così non poteva fare. Esatto. Adesso siamo nella situazione paradossale di andare a giocare 6 nazioni con un commissario tecnico che già non c'è più, che dimissionario, perché, esatto, ma ne hanno già preso un altro, quindi è tutto molto strano. Adesso c'è la lotta anche in federazione fra Gavassi e qualcuno di nuovo che sta cercando di vedere su. Ma quella è politica sportiva, io credo, giustamente. Poi gli uomini di rugby ti rispondono che di politica sportiva è meglio non parlare quando c'è da affrontare un 6 nazioni, però è evidente che oggi, insomma, è stata un po' una doccia gelata, ma non tanto per la sconfitta quanto per la modalità. Pier, io non so se hai avuto modo di vedere il pomeriggio dell'Italia del rugby all'Olimpico, lo solito secondo tempo, sì, con la Francia è andata in maniera diversa. Io sono d'accordo con l'ascoltatore, io trovo che ci sia, in questo secondo me è vero, un'enfasi e una sorta di glorificazione del rugby, a prescindere che alla lunga potrebbe anche far male al rugby. Lo dico proprio con affetto per uno sport meraviglioso, nel senso che il terzo tempo è bellissimo, cioè una volta che abbiamo capito, imparato tutta una serie di cose veramente utili, belle, che andrebbero anzi riportate nel nostro sfigato e complesso mondo del pallone, però bisogna fare un passo avanti, questo non c'è alcun dubbio. Intanto bisogna vincere, Pierluigi, nello sport professionistico. Esatto, delle volte dei toni un po' trionfalistici di fronte alle sconfitte sono d'accordo, e questo in questo modo non corrisponde allo sport, perché nello sport gli applausi li becchi se vinci, se perdi alla fine ti rode. Detto questo, però, bisogna anche ricordare che delle 6 nazioni, appunto, noi siamo quella nella quale questo sport è nettamente più periferico, se non in alcune zone d'Italia, dove ovviamente penso a Catania, penso ovviamente al Veneto, penso da Padova, da dove chiama Claudio. Però sai, il discorso è che il rugby è uno sport molto ricco, perché i 6 nazioni è una miniera d'oro. Quindi è una federazione estremamente ricca, ed è una federazione ed è uno sport che non riesce a costruire, cioè non riesce a progredire. Quindi sarà. Ma sicuramente, però voglio dire, ci vuole anche tempo, secondo me. Cioè, a me sembra se noi consideriamo il movimento ranchistico nostro e quello dell'Inghilterra, alla fine ci sta anche il risultato della partita di oggi, credo, in assoluto, no? E tutto sommato in Francia avevamo perso invece veramente a testa alta. Detto questo, io sono d'accordo sul fatto che sia un eccesso di trionfalismo e di glorificazione di questa squadra e in certi momenti anche di questo sport, che è comprensibilissimo che ci sia, ma che alla lunga rischia di diventare una zavorra. Sì, ha bisogno di essere riscontrato anche poi dai risultati in campo. Guarda, c'è un altro amico, Massimiliano da Treviso, via WhatsApp, che scrive: le interviste dei nostri nel dopo partita andrebbero abolite, non si possono più sentire. Cioè, c'è anche un po' un senso di noia rispetto a quello che sentiamo. Alla lunga, premesso che per me rimane miracoloso quando il movimento artistico italiano riesce a giocarsela quasi alla pari, come è successo per esempio con la Francia una settimana fa, però poi, visto che alla fine sono 6 nazioni, benedetto, non giochiamo, lo giochiamo da tanti anni, sono d'accordo con gli ascoltatori che poi alla fine bisogna, se vinci gli applausi, c'è quasi un divieto di critica nei confronti. Guarda, c'è un altro amico che scrive: in Francia abbiamo giocato bene, oggi nel primo tempo ci hanno distrutto 4 giocatori, per non parlare degli arbitri. Guai se parliamo degli arbitri anche nel rugby. Giovanni da Verona. Giovanni, sì, buonasera, eccoci. Allora, io volevo purtroppo parlare ancora di Juve Napoli, perché il discorso sul rugby era molto interessante. Da spettatore neutrale, perché purtroppo tengo una squadra che non lotta esattamente per lo scudetto, me la sono goduta da sportivo la partita ieri sera. E devo dire che secondo me Allegri ha vinto la partita, perché Allegri ha 10, 20, 30 schemi di gioco. Il Napoli può fare quello schema di gioco. Il problema è che la Juve può fare qualsiasi cosa in campo, questa è la vera differenza. Il Napoli, se non attacca, non vince, e la Juve ieri l'ha fatto in modo che non attaccasse. Allegri è quello che ha giocato la più dignitosa partita contro il Barcellona di tutti gli avversari. Non lo so, mi sembra un po' forte come critica. Allegri ha vinto perché ha trovato Zaza che ha fatto gol. È una partita da 0-0 schiantato, non c'è dubbio. No, io sono d'accordissimo sui meriti di Allegri. Tra l'altro, occhio a questa sostituzione con Alessandro che entra nel finale. Sì, l'abbiamo detto, l'abbiamo già vista un'altra volta. Per esempio contro il Torino, fu decisiva. Tra l'altro allo stesso minuto, minuto 86. Ed è una sostituzione, secondo me, che racconta della capacità di Allegri di saper reggere la partita. Non sarei così catastrofista su Napoli. Ripeto, il Napoli ieri non è che dovesse scendere allo Juventus Stadium con l'obiettivo di vincere, se no era fuori dallo scudetto. Il Napoli affrontava la partita di ieri in trasferta da più due. È chiaro che se avesse vinto l'avrebbe fatto molto piacere, ma se non avesse perso sarebbe tornato a casa strafelice. Questa è la mia lettura, insomma. E poi, chiaramente, questo gol cambia tutto. Ma insomma, come è stata una partita da 0-0, facciamo un corso di immaginare che cosa avremmo detto se fosse finita 0-0. Avremmo detto: il Napoli a testa alta, altissima, in casa di una grande squadra che viene da 14 vittorie consecutive, pareggia senza praticamente rischiare. Questo penso che avremmo detto, no? Non credo. Per cui, siccome il gol finale è abbastanza episodio, anche se gli episodi nel calcio hanno un valore, il fatto che Zaza stia così, questa secondo me è la vera cosa, no? Il fatto che Zaza sia uno che non gioca mai, che fa un gol ogni 95 minuti, che dovrebbe essere uno al quale rode, e che invece non solo Erode. No, ma Erode dovrebbe giocare di più, però voglio dirti, pure questo è un capolavoro, è un ma io credo Pier, no? non so se sei d'accordo che il modo in cui ieri Allegri dopo partita ha rivendicato anche il fatto che a gennaio Zaza l'ha tenuto lui, voglio dire qualcosa tra le righe, non polemica, però significhi che Allegri giustamente mette il cappello sulla scelta a gennaio di essersi impuntato perché Zaza restasse, perché poi Zaza gli sta dando queste risposte. Il fatto che un giocatore che gioca poco poi entri e sia così coinvolto, credo che sia anche forse il simbolo migliore del lavoro che sta facendo Allegri. Carlo da Pordenone, Carlo. Ciao ragazzi, buonasera. Eccoci. Sgombro il campo, io sono romanista, per cui per ieri sera ho guardato da sportivo la partita, senza nessun interesse. Il Napoli secondo me ha fatto una partita bellissima, ma avevano paura di vincere perché non hanno mai attaccato abbastanza. Meritavano lo 0-0 tutte e due, poi l'episodio e Zaza non ha fatto gol. La deviazione, perché sennò il portiere c'era. Questo è difficile. Sicuramente avevano paura di vincere tutte e due, ecco. Aspetta Carlo che ti faccio invece sentire una cosa a proposito di paura. Ieri sera Zidane. Il ruolo di Cristiano, bueno, ¿qué te voy a decir? Que vosotros estáis aquí para opinar de si sabes que juega bien o mal y que está acabado de todas estas cosas. Él ha mostrado otra vez hoy que está de, no sé si lo puede decir, de puta madre, no sé. Pero, perdón con la palabra, pero está bien, está contento de mal. Date la parola, però insomma Cristiano Ronaldo sta bene. Non ho capito come sta. De puta madre. De puta madre. Si può dire. Il Real sta un po' meno bene perché mancheranno Bale e Marcelo mercoledì a Roma. Io non so, Carlo, abbiamo ancora Carlo da Pordenone, tifoso della Roma. Avete un po' la speranziella? No. Devo dire, ce la giochiamo. E poi mi è piaciuto vedere che hai visto mai che passiamo il Real Madrid dopo in discesa, Sì, è fatta. È bello crederci, lo sport è questo, Mortirolo in salita e poi c'è la discesa del Mortirolo, sì, giusto. Perché questo vale per la Roma e vale per la Juve, secondo me. Al giorno del sorteggio, insomma, io credo che chiaramente il Bayern sia favorito e il Real secondo me è ancora più favorito del Bayern, quindi se ti dovessi dare un pronostico ti direi comunque sicuramente il Real e molto probabilmente il Bayern, però mi sembra che Roma e Juve arrivino bene a questa sfida, tutte e due, e quindi arrivino nelle condizioni di potersela giocare con autostima, con delle armi importanti. Il Bayern è quasi equilibrata ormai. Sì, cioè 50-50? 50-50? No, secondo me è 60-40 per il Bayern, però è 60-40. Abbastanza pezzi il Bayern, continua a perdere un giocatore al giorno. Perde un giocatore al giorno. Tra un po' ti convocano. La Juve sta molto bene, è completamente diversa rispetto a quelle 2-3 mesi fa. Comunque a livello di esperienza internazionale sono due squadre che si seguono. sì. Come se fino agli Champions sia arrivata la Juve, non il Bayern, tanto per fare un esempio. E la Roma sta rimettendo insieme dei pezzetti di autostima, continuano a fare degli errori, secondo me, gravi, nel senso che quello che ho visto fare a Rudiger, per esempio, l'altro giorno, cioè la Roma secondo me ha qualche difettuccio strutturale che non ha ancora completamente risolto. Sì, il problema è che Real Madrid ha Cristiano Ronaldo e quei difetti strutturali lì, soprattutto in difesa, poi diventa, certo, diventa difficile gestirli. Ma i difetti strutturali li avete voi, perché io aspetto qua come stupido. No. Ecco, come una bottiglia stappata, pardo, sempre passi sempre tutti davanti. Hai litigato con Balotelli? Ecco, perché ci chiedono due parole su Balotelli. Un amico, vogliamo dire due parole su Balotelli. Sono qua da una settimana e 14 minuti. Adesso sono 15 minuti. Adesso tu, pardo, non puoi parlare. Anche Carlo mi è passato davanti, quello che ha telefonato di Pordenone, parla di Roma. Adesso e facciamo, di Milan quando, quando adesso facciamo passare avanti anche Filippo Maria Ricci. Ciao Filippo. Ciao, ciao. Però ciao, Filippo, devi aspettare anche tu, perché passa davanti a tutti. Il sosia di Rocco Danica, ufficialmente. Ah sì, l'abbiamo visto, l'abbiamo visto. Meglio, Rocco Danica è il sosia di Filippo Maria, è uguale. Però davanti a tutti passa il traffico, vi devo fermare, traffico. Va bene. Tutti convocati. Convocati. Tanto ha pareggiato il Manchester City 1-1 quando mancano 15 minuti alla fine della partita col Tottenham, che a questo punto torna a quota 49 punti, staccato di 4 dal Leicester, ma adesso ne parliamo anche della grande beffa di Ranieri. Filippo Maria Ricci, come sta il Real Madrid a 3 giorni dalla sfida con la Roma? Ma bene davanti, meno bene dietro. Debuta madre, come dice, dice il tuo amico madre, sì, Ronaldo, però Ronaldo c'è il fatto che comunque segna sempre in casa. Adesso poi dobbiamo riparlare del Madrid, diciamo, per il ritorno, perché ci sono come se fossero due squadre diverse. Anche Ronaldo segna sempre in casa, più o meno, fuori fa decisamente più fatica, però bisogna vedere. La Roma deve sopravvivere all'Olimpico, se la partita resta aperta poi dopo vediamo, perché è un Real Madrid che in trasferta ha qualche difficoltà in difesa. La difesa non è impermeabile, ma soprattutto perché davanti continuano ad aiutare poco, se aiutano poco qui dietro soffrono. È chiaro che hanno i centrocampisti in forma, cioè Kroos, Modric e ieri Kovacic sono in ottimo stato di salute, però se i tre davanti poi non aiutano, la Roma ha la possibilità di dar fastidio. Poi il grosso vantaggio di giocare senza pressione la Roma, a differenza del Real. Senza pressione non lo so. Senza pressione non lo so, perché la Roma, la cosa peggiore della Roma negli ultimi anni, secondo me, sono state le figuracce a livello europeo. Che sono quelle che rendono. Questo non c'è dubbio, anche una partita come il Real, dove hai ragione tu, sicuramente. Insomma, la Roma alla fine il suo obiettivo l'ha raggiunto, si è qualificata, adesso vai e te la giochi. Però c'è Barcellona, però c'è Bayern, però c'è stato fatto il terminale del 7-1, cioè ci sono dei passaggi del passato che però del passato recente, che questa squadra ricorda benissimo e che possono essere molto condizionati. Sono d'accordo con Filippo, sicuramente devi sopravvivere all'andata. L'andata secondo me puoi veramente fare una partita quasi da 0-0, insomma. Io vedo questo come obiettivo, insomma, non prendere gol. Qui non è il discorso di non prendere i 6 presi a Barcellona o i 7 presi dal Bayern. Esatto, l'importante è non prenderne neanche uno. Anche perché ne basta uno sui 180 minuti, diciamo la verità. Esatto. Contro una squadra come Real Madrid ne basta uno. Io la vedo duretta, non prendere gol. Difficilissima. Però il Real Madrid ha i suoi problemi, cioè è stato messo sotto dal Granada, che non è esattamente uno squadrone, domenica scorsa, ed è stato ieri Valverde ha detto, cioè dice, bisogna fare attenzione perché noi abbiamo dominato, e lui ha ragione, al primo tempo l'Athletic Bilbao ha dominato, però è andato a casa con un 3-1 alla fine del primo tempo, 3-1 sotto, per cui questo è il grande pericolo. Però la Roma ha delle qualità, secondo me, per mettere a punto le difficoltà del Real. È chiaro che il Real ha di più, alla fine è un discorso statistico, il Real ne ha di più, però secondo me la Roma di oggi è tornata ad essere una squadra, e semmai il vero grande rammarico della stagione giallorossa è non aver cambiato prima. Diciamolo ormai in maniera chiara e precisa, perché lì o si dava fiducia a Garcia, si dava un un mandato senza se, senza ma, agli occhi di tutti. Della oppure tanto della voleva cambiare prima. Guarda che la Roma adesso con 2-3 pareggi dei minuti finali, che se li trasformi in vittorie, veramente la Roma era un passo. Poi secondo me è inferiore sia alla Juve che al Napoli, perché comunque ha nettamente c'è anche Pier un po' di casualità nella striscia della Roma, perché vai a giocare col Sassuolo, il secondo tempo soffri e al 90esimo Berardi sbaglia il rigore, giochi con la Samp bene per 70 minuti e gli altri prendono palo e sbagliano un gol fatto dopo il 90esimo. Sì, però è anche vero che il vento è cambiato. Il vento è cambiato e di queste quattro partite, secondo me, quella dove la Roma forse non meritava di vincere era quella con la Samp, perché col Sassuolo è vero che hai sofferto, c'è stato il rigore, hai sofferto poco, non è poi alla fine. Ma è anche vero che dovevi fare il secondo gol molto prima, e contro il Carpi la vincita della Roma è una roba assurda che fa Rudiger, che per carità fa parte della rosa, quindi sì, sbaglia, sì. Non è che, e pensa che dovrà marcare Cristiano Ronaldo, cioè Filippo. Forse per quello rideva Zidane. Brividoni. Queste sono le chiavi, ovviamente. Stiamo dicendo che la Roma non deve prendere gol, e poi c'hai Rudiger su Ronaldo. E un Ronaldo che ieri, però, per la prima volta ha segnato a una squadra che gioca in Europa. Perché Ronaldo, insomma, fa tanti gol. Cioè, fino a prima di ieri ha fatto il 42% dei suoi gol in Liga all'Espagnola, una squadra sola. per cui bisogna vedere, è chiaro che Rudiger su Ronaldo può far impressione, però il concetto della Roma è l'aiuto, è la squadra, quello che qua dicono il gioco solidario, cioè no, il gioco solidale, se si aiutano, se riescono a fare una pressione alta sul centrocampo del Madrid, e questo centrocampo è tagliato fuori diciamo, perché i tre davanti non hanno tanta voglia di lavorare, la Roma ha le sue chance, insomma. Sì, almeno di restare nel discorso in qualificazione partita. In partita. Beh, fino al ritorno di Madrid. Grazie Filippo. A ciao, voi, Filippo. Grazie, a presto. Grazie ciao, Filippo. Incognita condizione fisica. Incognita, assolutamente. Mi fate sentire quello che è successo oggi a Londra. Dentro il tocco di Welbeck. Welbeck, incredibile. Rientra dall'infortunio Welbeck e fa il gol del 2-1 a tempo scaduto. Danny Welbeck l'ha sbloccata ancora lui per l'Arsenal dalla panchina. Trova il gol del 2-1. Incredibile. Ora l'Arsenal è in vantaggio all'ultimo respiro. Tutto questo al minuto 94 e 30 di una partita che Leicester prima vinceva 1-0 con il solito Vardy su calcio di rigore, poi in 10 contro 11 la beffa 2-1 per l'Arsenal. Paolo Ciarravano, ciao. Buonasera, buonasera a tutti. Direttamente da Fox. Io non so se possiamo chiamarla beffa o insomma, alla fine Ranieri aveva il bus parcheggiato davanti alla porta di Schmeichel, diciamo la verità. Beh, ma era inevitabile, direi. Un po' per indole e per attitudine della squadra, che ha sempre giocato senza nasconderlo sulla difesa, sul contropiede, ma era in 10 per la sciocca espulsione di Simpson. Il secondo giallo era assolutamente evitabile, è stato molto ingenuo il difensore di Ranieri. Da lì in poi il Leicester si è arroccato dietro e ha sofferto, perché l'Arsenal ha giocato un grande secondo tempo. Forse senza la sciocchezza di Simpson l'Arsenal non avrebbe ribaltata. Per quello che poi ha detto il campo, probabilmente l'Arsenal l'ha anche meritata, anche se la dinamica e anche l'uomo che fa il gol del 2-1 rende il tutto ancora più letterario, perché è un giocatore che giocava da aprile del 2015, che torna dalla panchina in una partita così importante e fa gol, ritrova la sensazione di un gol che non assaporava dal dicembre del 2014. Sì. È la modalità che rende tutto abbastanza unico. Allora, intanto il Tottenham è passato in vantaggio a Manchester, quindi vi rileggiamo la classifica: Leicester 53, Arsenal e Tottenham 51, Manchester City 47. E vi leggiamo anche che Ranieri prima si è arrabbiato per la partita persa così, e poi dopo ha dato una settimana di ferie ai suoi giocatori. Ha detto: potete andare dove volete, dove andranno? A Dubai, possono andare dove vogliono. Beh, diciamo che l'Ester ha la particolarità, e il calendario in questo momento dà la particolarità all'Ester di non giocare per due settimane, perché di mezzo c'è l'FA Cup, dove l'Ester è già stato eliminato. Questa squadra, al di là della normale rabbia di Ranieri per la dinamica della giornata, comunque gli ha dato tutto. Abbiamo parlato noi a fine partita, era proprio quello che diceva: questi mi danno tutto in campo, adesso forse li posso anche fare riposare. Hanno sbagliato delle cose, ci sono state delle ingenuità anche di Vasilevskiy sulla posizione che ha originato il gol, ma sicuramente questo è un gruppo compatto che Ranieri dà tutto, e dopo un'altra partita di grande dispendio energetico e nervoso, secondo me ci può stare. Pier, te lo immagini un allenatore Sarri, ad esempio, che persa la partita con la Juve, desse una settimana di riposo a tutti, anche potendolo fare, ci ha spiegato Paolo. Così come fa abbastanza impressione, oggi ho visto un po' la partita, poi ero per le campagne andato verso Firenze e a un certo punto disperato ho scaricato un'applicazione con le radio inglesi e ho sentito l'ultimo quarto d'ora su Talk Sport con la radio inglese direttamente dall'applicazione, proprio tempi moderni. No, io penso su Ranieri, sicuramente sta facendo un lavoro straordinario, secondo me è al polso della situazione e questa mossa è una mossa giusta. Se lui se la sente, credo sia una mossa assolutamente giusta, lui è al polso dello spogliatoio, quindi nessun altro può sapere se sta bene o fa male. Certo, è abbastanza insolita, sono d'accordo con voi che in un calcio più polemico, più velenoso, arroventato come il nostro, farebbe discutere molto. Sì, farebbe discutere parecchio. Sì, dici, ma come? Sei lì, puoi competere per il titolo, sì, ma in vacanza. Però nel calcio quello che tutti gli allenatori mi hanno sempre detto è che non è la quantità dell'allenamento che fa il risultato, è l'equilibrio fra fasi di carico e fasi di scarico. Certo, la settimana fa effetto, però magari questa settimana sarà utile per ricaricare completamente le pile e per... Ma magari mercoledì o giovedì sono tutti lì ad allenarsi, i giocatori per primi, chi lo sa. Pier, ti salutiamo che siamo in chiusura. Ciao Pier. Ciao. Domani. A domani dopo le 14. Saluto anche Paolo Ciarravano. Ciao Paolo. Ciao Paolo. Un saluto a voi, a presto. Ciao. Mi scuso con Manuel dalla provincia di Novara, con Giorgio da Cuneo che si erano prenotati, ma domani insomma riapriamo dopo il GR delle 14. Ci sarà modo di parlare ancora di rugby, di Juve-Napoli, di Fiorentina-Inter di questa sera, di io tutto quello che volete. Sono arrivato sempre prima di tutti, sono arrivato, e voi allora state sempre prendendo per il culo perché io non posso aspettare domani. Qua domani, stai lì che domani, ci vediamo domani, stupido. Allora, aspetta qui che domani ci vediamo, non è una bacchetta magica di Jerry Putti. Domani no. Dopo il GR delle 14 io ringrazio Claudia Schiatone, autrice di questa puntata, Valeria Bernardi, Paolo Corleone regia, c'era anche il nostro Andro Mercuri, avete sentito? Prima io di Andro Mercuri c'ero prima. Domenica alle 17 torniamo tutti convocati il weekend. Ciao. Va ragazzi, fischia la fine.